1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Li leggo se ce la faccio. Li leggo se ce la faccio. Questo vi comunico alle 7 e 16 minuti. Questo è ciò che rimane di me, cari debosciati d'Italia, della mia voce, del mio corpo, del mio fisico, della mia anima, del mio cuore. Ecco, lo butto qua, babam, sul microfono. Microfono che abbiamo ripristinato, prima non funzionava neanche il microfono. Ma è venerdì. E tra l'altro si chiude la 48esima settimana decisiva per la riforma elettorale e la 48esima settimana decisiva per la riforma delle province. L'abolizione delle province. Dice, ma come conti? Conto. Sì, conto anche le province perché sono state abolite. Vi risulta? Non è che mi risulti proprio questo. Comunque, parleremo di che cosa oggi? Parleremo di lotta all'abusivismo, il caso della Sardegna e l'isola La Maddalena, di cui abbiamo parlato anche qualche giorno fa in rassegna stampa, dove ci sono i tentativi per abbattere delle case abusive con la popolazione che si ribella. Anche questo è uno spaccato di un'Italia che è irriformabile su alcuni punti di vista. Questo alle 8.15, parleremo anche di vitalizia alla regione Lombardia. Alle 8.45, insomma, un bel menù. Ora tentiamo di andare a leggere i giornali. In questo venerdì 4 aprile, intanto i titoli, Sole 24 Ore apre BCE pronta a misure straordinarie, questo è il titolo di apertura. Poi devo dire che le prime pagine ognuno va un po' per conto suo con le aperture. Il Corriere della Sera, un'intervista in esclusiva al direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, il titolo è questo: lavoro alle donne, siete i peggiori. Questo è il titolo del Corriere della Sera. Per Repubblica invece l'ira di Berlusconi, se non mi tutelano saltano le riforme. Il Fatto Quotidiano la mette così: è tutto un voto di scambio, il Caimano non molla, se il 10 aprile scatta l'arresto candiderà uno dei figli, assicura il Fatto. Mentre per La Stampa l'economia, IRPEF, 80 euro il tetto massimo, il governo crescita dello 0,8%. Il Messaggero, i tagli di Renzi, ecco la lista. Il Giornale, province è una truffa, questo è il titolo, mentre l'Unità, l'Italia non è una provincia, sì della Camera, la riforma Delrio diventa legge. Il Manifesto mette invece serbatoio di voti, il titolo di prima pagina con la foto di Cosentino, ex sottosegretario all'economia che è stato arrestato, è la seconda volta, mentre per il Quotidiano Avvenire, fame e disperazione, 600.000 alle porte. 600.000, questa è la cifra data da Alfano per i migranti. Il Libero invece titola: ecco i senatori di Renzi. La Camera Alta, cioè il Senato, non viene abolito, solo modificata. Risultato: entreranno a Palazzo Madama una schiera di burocratosauri, cioè i sindaci da Chiamparino, Ignazio Marino a Pisapia, Leo Luca Orlando, Nichi Vendola, Emiliano, sindaco di Bari. Insomma, questi sono i personaggi messi in foto da Libero. La prima novità che riguarda Renzi, ne abbiamo parlato anche qui qualche giorno fa nella nostra trasmissione a 24 mattino, arrivano i tagli per le indennità degli ambasciatori. Renzi, che ieri è andato da Lilli Gruber a 8:30, questo è il titolo di pagina 5 del Corriere della Sera, ha detto arrivano i tagli alle indennità. Indennità che possono arrivare, raccontano tutti i giornali, come Il Messaggero sotto il titolo arriva il giro di vita, la Farnesina ridotti gli stipendi degli ambasciatori, indennità che possono arrivare fino a 400.000 euro, comunque mai meno di 100.000 euro per chi lavora alla Farnesina, questa è la cifra base. Il ministro Mogherini ha annunciato risparmi di 110 milioni in 3 anni. Costosi e per sempre, gli ambasciatori sono come i diamanti. Questo è il titolo di pagina 8 del Fatto Quotidiano. È la casta della diplomazia. Contratti da 100.000 euro in su. E la carica soprattutto è garantita anche senza sede all'estero. Cioè, se succede, come è successo che alcuni stati spariscano, gli ambasciatori mantengono il loro ruolo e magari rientrano alla Farnesina, rientrano nell'ufficio, e in questo caso viene anche confermato il grado e lo stipendio. Anche per Repubblica, ambasciatori d'Italia tra stipendi d'oro ed extra da capogiro, questo è il titolo della pagina con gli annunci di tagli di Matteo Renzi, 110 milioni da recuperare in 3 anni per i tagli agli stipendi degli ambasciatori. Allora veniamo alla questione delle province. Che dire di questa questione delle province? Basta leggere qualche titolo per dire: non si vuole fare il disfattisti, per carità, ma io conto le settimane per l'abolizione delle province. Da quando? Dall'inizio di questa legislatura, quando l'allora premier Enrico Letta disse: aboliremo le province. Allora siamo alla 48esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, che vuol dire una sola cosa. Lo ripeto sempre: se l'italiano è una lingua precisa, abolire le province vuol dire che se oggi voi abitate, non so, per esempio a Pisa, andate a bussare alla provincia di Pisa e non vi apre più nessuno. Ecco, siccome non è così, le province, fin tanto che non sarà così, a mio modo di vedere, ci saranno ancora le province. Allora, il titolo del Sole 24 Ore è: dal 2015 le province si svuotano. Ma in prima pagina, eccolo qui: poteri svuotati, stop agli organi elettivi, ma gli enti restano. Gli enti restano. Eugenio Bruno dice: tutti i dettagli del decreto Delrio, che è stato approvato in via definitiva, dunque legge, alla Camera. Come cambia la cartina dell'Italia? E cambia, ma non troppo, scrive il Sole. Le province scendono dalle attuali 107 a 97, perdono gran parte dei loro poteri, diventano assemblee di sindaci senza indennità, questo almeno c'è, ma le altre 10 si trasformano in altrettante città metropolitane, acquistano voce in capitolo su trasporti, comunicazione e sviluppo economico. Comunque si va dagli scettici o comunque dubbiosi, come il Sole 24 Ore, a chi appunto è ugualmente come il Corriere della Sera un pochino scettico: province svuotate, ecco le città metropolitane e le assemblee dei sindaci, il via libera alla legge. A chi è un po' scettico del tutto, come il Fatto Quotidiano, che dice c'è il rischio addirittura che aumentino i costi. C'è un'intervista per Repubblica all'assessore all'istruzione della provincia di Firenze, che dice: o mi pagano o mi dimetto. Dovrà tornare, si chiama Giovanni Di Fede, dovrà tornare a essere un maestro ramingo quasi di strada, intervistato da Mario Neri a pagina 7 di Repubblica. Dice: il pacchetto prevede la proroga delle cariche politiche fino al 31 dicembre 2014, ma le indennità decadono prima, e siccome io la politica non la faccio per hobby, se non mi danno più lo stipendio, che devo fare? Non ho ancora capito da quando, ma sarebbe davvero spiacevole se fosse da subito. Spero si arrivi almeno fino a maggio, cioè alla naturale scadenza della legislatura, e poi tornerò a fare l'insegnante. Ma insomma, c'è anche un po', dal punto di vista dei politici, qualche chiarimento a cercare di capire che succederà con i loro stipendi. Oh, a proposito di cifre e di cronaca, mi ha molto colpito, vi do questa prima della pubblicità, mi ha molto colpito questa cifra che il ministro all'interno Alfano ha spiattellato in maniera molto brutale. Sono arrivati ancora dei migranti nei giorni scorsi, sono stati spesi dal Viminale 300.000 euro al giorno, 300.000 euro al giorno per garantire i soccorsi, 300.000 euro al giorno. Il Viminale ribadisce: l'Unione Europea non è un problema che deve essere solo un problema italiano, le solite questioni, siamo alla frontiera dell'Europa, questioni che abbiamo affrontato e che si ripetono con l'arrivo della bella stagione tutti gli anni puntualmente. E però c'è questa cifra: altri 600.000 migranti pronti a partire. 600.000 sono tanti, cari ascoltatori. Allora Fiorenza Sarzanini racconta a pagina 21 del Corriere l'allarme che si rinnova con l'arrivo della bella stagione, col mare calmo che favorisce le partenze dal Nord Africa. E in quella zona, dice Alfano, ci sono tra le 300.000 e le 600.000 persone in attesa di transitare nel Mediterraneo. Non dice in Italia, ma dice transitare nel Mediterraneo. Certo, 300-600 mila è una forbice abbastanza ampia. Si tratta di una questione annosa, fa sapere il Corriere, mai risolta, che il titolare del Viminale decide di rilanciare in vista delle elezioni europee. Questo dà lo spunto ad Avvenire per farne il titolo di apertura di prima pagina. Fame e disperazione, 600.000 alle porte. L'appello è proprio all'Europa, quell'Europa per cui si vota il 25 maggio la votazione per il rinnovo della carica del Parlamento europeo. Ci batteremo per proteggere le nostre frontiere, dice Alfano. Lo strumento è il Frontex, lo strumento europeo che va potenziato. Insomma, un vero e proprio appello anche all'Europa, visto che 600.000 o tra le 300.000 e le 600.000 persone sarebbero pronte a premere sulle nostre coste per magari non arrivare come obiettivo finale l'Italia, ma comunque approdare in Italia e poi mettere il primo piede in Europa. Va bene, ci fermiamo qui alle 7:27 minuti, la pubblicità. Non mi riprenderò, oggi va così, ma almeno bevo un sorso d'acqua se lor signori me lo concedono e poi ritorniamo qui. Alessandro Milan, il pipistrello dell'informazione! Ma chi è questo bambino, ragazzino? Ma chi è? Ma è un genio il pipistrello! Lo abbraccio, grazie! Allora, le riforme è il tema centrale. Tutti i giornali raccontano del dopo incontro Berlusconi con Napolitano e della strada lastricata delle riforme, lastricata di buone intenzioni, ma che rischia di, secondo alcuni, di naufragare su questo 10 aprile, quando Berlusconi dovrà essere giudicato dai magistrati se da mandare agli arresti domiciliari oppure ai servizi sociali. Il titolo di Repubblica di prima pagina è proprio questo: l'ira di Berlusconi, se non mi tutelano saltano le riforme. C'è da dire che Repubblica è l'unico giornale che la mette giù in maniera così dura. Nell'articolo poi di Goffredo De Marchis e Carmelo Lo Papa, pagina 2 e 3, perché scrivono i giornalisti di Repubblica: la delusione maturata appena rientrato dal colle ha lasciato spazio allo sconforto più buio, a uno stato quasi di prostrazione fisica. Racconta così chi ha raggiunto ieri Berlusconi a Palazzo Grazioli. Si sente in un vicolo cieco a pochi giorni dal pronunciamento dei giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Il leader di Forza Italia ha la certezza di essere rimasto solo di fronte alla pena da scontare. Ed ecco allora la rabbia nei confronti di chi gli ha consigliato e lo aveva illuso di uno spiraglio possibile, spingendolo a farsi ricevere dal capo dello Stato. Tutto inutile, continua a dire ai suoi: vedrete, questi ormai fanno di tutto e possono anche sbattermi ai domiciliari. Se potessero, mi metterebbero pure in galera pur di non farmi fare campagna elettorale. Per questo, tra l'altro, scrive Repubblica, ieri l'emissario di Berlusconi, Verdini, ha rincontrato Matteo Renzi. Berlusconi ha chiesto una tutela, un'agibilità politica, e Matteo Renzi risponde: capisci, io non posso proprio farci niente, a Denis Verdini. Insomma, Repubblica la mette giù pesante, come dire, la situazione rischia di naufragare. C'è da dire che però altri giornali sono un po' più morbidi su questa lettura. Per esempio Il Giornale addirittura la mette così: Berlusconi invoca il silenzio perché ci sono spiragli per l'agibilità politica. L'articolo di Francesco Cramera, pagina 2, questi spiragli sarebbero la speranza che i magistrati possano posticipare l'inizio delle misure restrittive nei confronti di Berlusconi a dopo le elezioni, una sorta di patto per garantire appunto questa agibilità politica almeno in campagna elettorale. Tanto che Il Giornale a pagina 3, con Laura Cesaretti, racconta: Renzi incontra Verdini e blinda il patto con il Cavaliere. Quindi Il Giornale in realtà è più ottimista. Per il Fatto Quotidiano invece Renzi delude Berlusconi, tratto solo sulle riforme. Questa è la trattativa che Renzi ha garantito a Berlusconi. Secondo il Corriere della Sera addirittura c'è nel retroscena di Maria Teresa Meli, che trovate a pagina 9, la contromisura del premier Renzi. C'è anche il referendum confermativo, cioè il Premier ha avvertito i partiti da Forza Italia al PD, senza riforme meglio il voto. Un Matteo Renzi che dice bisogna accelerare, bisogna andare avanti senza confondere le riforme e le questioni giudiziarie di Berlusconi, bisogna insomma andare avanti a tutto spiano senza farsi imbrigliare da questi discorsi. Certo, da qui al 10 aprile, da qui quindi settimana prossima, sarà certamente il tema politico del giorno. Attenzione, perché il secolo XIX addirittura ha un giallo abbastanza clamoroso. Giampiero Timossi ne parla a pagina e ne scrive a pagina 7. Il giallo è questo: Silvio Berlusconi sarebbe da ieri ricoverato per accertamenti al ginocchio all'ospedale San Raffaele insieme al suo medico di fiducia Alberto Zangrillo. Il titolo della mezza pagina è accertamenti al San Raffaele, giallo su Berlusconi. La versione ufficiale parla appunto di problemi al ginocchio. Ma il giallo è questo, il motivo è facile da intuire, scrive il Secolo. Tutta la solita storia salta fuori a pochi giorni della decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ex Premier sta attendendo la più dura delle sentenze nella sua lunga vicenda giudiziaria. Il 10 aprile è atteso all'udienza al Tribunale di Sorveglianza, in cui saprà se dovrà passare 9 mesi agli arresti domiciliari o in affidamento ai servizi sociali. E allora si chiede il Secolo cosa succederà se putacaso quel giorno l'ex premier sarà ricoverato in una stanza del San Raffaele con il ginocchio ancora KO. Diverse le ipotesi, ma la legge va interpretata. Un'interpretazione che sembra prevalere è questa: quel giorno il magistrato di sorveglianza potrà valutare se esiste una reale incompatibilità con la misura degli arresti domiciliari o l'affidamento dei servizi sociali in base alle condizioni fisiche della persona. Ovviamente tutto dovrà essere attestato dalla documentazione medica, ovviamente la pena non verrà cancellata, ma in qualche modo verrà differita fino a quando il condannato non venisse dimesso dall'ospedale. E insomma, il Secolo XIX fa capire, per carità, magari sono sospetti ingenerosi, è un uomo di 77 anni, alle prese con alcuni problemi di salute, che ha manifestato anche altre volte, però è chiaro che anche su questo profilo, insomma, per il Secolo XIX ci sono elementi per infoltire, rinfoltire questo giallo su Berlusconi che sarebbe ricoverato alla San Raffaele. Secondo l'Unità, Berlusconi sta vivendo in maniera talmente difficile e tormentata questo momento che, racconta Claudia Fusani a pagina 4 e 5, l'altro giorno in una riunione con i suoi esponenti del partito, a un certo punto una persona gli ha detto: guarda Silvio, ti faccio parlare con una persona importante, più giovane di te, che è finita agli arresti domiciliari, così ti spiega che insomma riesci comunque ad avere una buona autonomia di movimento, di incontro. A quel punto è stato chiamato uno dei dirigenti di polizia condannato per i fatti del G8 di Genova e Berlusconi si è voluto informare su come si viva agli arresti domiciliari. Il titolo dell'articolo è: Berlusconi al prefetto arrestato, come si sta ai domiciliari? Cioè sarebbe avvenuta proprio questa telefonata con il prefetto che gli ha garantito: guardi, c'è libertà da tal ora all'altra ora della mattina e poi al pomeriggio, c'è possibilità di incontrare persone residenti al domicilio prescelto, più anche altre persone se segnalate, c'è la possibilità di spostare il domicilio in un altro indirizzo anche ogni settimana. Insomma, diciamo che Berlusconi sta davvero vivendo, come è comprensibile, con grande apprensione questo momento che sta arrivando. D'altra parte Renzi continua, vogliamo andare avanti con grande forza, andiamo avanti a tutto spiano e lo fa tra l'altro andando in TV. È interessante l'articolo di Mattia Feltri a pagina 3 della Stampa, è un'analisi di quella che viene definita dalla Stampa l'operazione Occupy TV, cioè Occupy TV da parte del Premier, che imperversa su tutti tutti i teleschermi, scrive la stampa. Compare in video quasi 5 ore al giorno. Questo Matteo Renzi, 292 minuti e 30 secondi, cioè 4 ore e 52 minuti e mezzo ogni santo giorno. Tanto trascorre in TV Matteo Renzi. Sono i dati elaborati per la stampa da GECA Italia, un laboratorio di indagine sulla comunicazione audiovisiva, nel periodo tra il 17 marzo e il 31 marzo. 14 giorni lungo i quali il premier ha galoppato in sella al suo personalissimo telecomando. Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News, Canale 5, Rete 4, Italia 1, TGcom, La 7, La 7D, MTV, Cielo, Sky, DJTV... non c'è emittente che non abbia diffuso il volto e le parole del Presidente del Consiglio, un totale sulle due settimane di 68 ore, 15 minuti, 56 secondi. È appunto una media di 4 ore e 52 al giorno. C'è un ultimo dato che forse meglio di tutti esprime la straordinaria attrazione che la telecamera esercita sul capo del governo. E, cioè si tratta di presenze e vuol dire questo: Renzi si concede in rilassatezza oltre un'ora al giorno, inclusi i giorni in cui riceve Barack Obama o va a trovare Angela Merkel. E cioè insomma ha discusso e ha passato in 14 giorni 17 ore e 15 minuti in talk show da 8 e mezzo, Ballarò e altri, Bruno Vespa, una strategia che Enrico Mentana, direttore del TG della 7, dice non è una scelta bislacca, è il propagandista unico dell'esecutivo, dunque non esistono mediaticamente la Madia, i Padoan, i Poletti, le Mogherini, esiste soltanto lui. Questa è la strategia comunicativa di Matteo Renzi. Matteo Renzi che appunto va avanti con le riforme. Assolutamente. A proposito di iperpresenzialismi in video e in radio, saluto Mauro Meazza, eccolo qua. Mauro, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Beh, insomma, mi sembra di essere molto lontano, sì, però da valori, sì, apprezzabili, diciamo. Ti saluta anche, scusami, ti saluta la mia voce, se la trovi al bar sei pregato di restituirmela, ti ringrazierei. Ti porto delle caramelline poi più tardi. Sì, vabbè, certo. Se, no, dicevo, sono tutto al più come presenzialista, potrei essere per il campionato provinciale, se non li avessero appena abolite potrei concorrere in quel settore lì. A proposito, leggi sul Sole 24 Ore di oggi, c'è un interessante contributo su questo svuotamento delle province, perché lì ci sono anche da prendersi in capo 10 miliardi e spiccioli di, sì, debiti, tra le altre cose. Mm-hmm. E lo scrive Gianni Trovati. Non è che tu vorresti un pezzettino, perché ad esempio, no, grazie, Milano ci sono 710 milioni di debiti, Roma 733, insomma, è spiegato tutto nella. Ma tanto sono sicuro che se raccoglieranno i cittadini di queste località ridenti. Ma questo veramente con piacere e con soddisfazione. Un sospetto che ci offende da parte tua. Speriamo naturalmente che non sia così. Poi sappi che ci sono gli studi di settore nuovi, radiofisco, facciamo un momento di radiofisco perché hanno diffuso i correttivi anticrisi. So che sugli studi di settore non sei preparatissimo, quindi non ti faccio domande. Quasi come sul condominio, più o meno. Sul condominio però ti stavi studiando, stavi recuperando bene e magari per non te lo do come esame di riparazione. No, si usano ancora esami di riparazione? Ma non lo so, penso di sì. Ecco, poi senti, c'è un contributo di Giuseppe Chiellino che vorrei proprio citarti. Allora, ci hanno mandato una lettera dalla Commissione UE e ci hanno detto che se non gli facciamo, non gli dimostriamo che abbiamo delle strutture in grado di gestire i fondi europei, ce li riducono. Cioè, li danno ad altri. Facessero prima a ridurceli direttamente. Non essere così disfattista, però te lo volevo dire perché mi pare una cosa così, non proprio di quelle non preoccupanti, ecco. Spiega tutto molto bene Chiellino, che dice, beh, insomma, sostanzialmente ci chiedono che gli uffici che si occupano di questo utilizzo dei fondi abbiano certe caratteristiche. Se non ce le avete o spendete male, come purtroppo vi è capitato, devo dire più in anni della prima metà del nuovo secolo che non dei primi anni del nuovo secolo che non in quelli più vicini, allora però noi diamo i soldi a qualcun altro, detto in estrema sintesi. Stai sereno perché hai ancora fino al 31 maggio, avrai ancora fino al 31 maggio per la rottamazione delle cartelle, la sanatoria delle cartelle. Ah, ecco. Tu che volevi, che hai ricevuto diverse cartelle di Equitalia, dopo queste dichiarazioni che fai che non hai hai solo 2 euro, eccetera, eccetera, immagino che ti abbiano subissato di cartelle. E vuoi investire in America? Sì, stai al nord, sì. Io pensavo giusto quello. Con i 2 euro? Sì, sì, sì. Ma mi converto in dollari prima. Non ti fanno neanche entrare, no, secondo me. Comunque, se tu vuoi investire in America, sappi che arriva il FATCA. E il FATCA provocherà banche e insomma operatori finanziari eccetera più di un grattacapo dal primo di luglio. Insomma, sostanzialmente il fisco americano vuole sapere bene se per caso non abbiamo degli americani che investono tramite noi, tramite italiani, tramite tutto il mondo. Sono in piccioni un po' con tutti. Tu sei americano? Perché no. Siamo sicuri di questo? Sì, che... sì, di questo possiamo essere certi. Vabbè, comunque, se ti venisse dubbio di essere americano, leggi nell'inserto norme e tributi. Ottimo, appunto, ottimo. La pagina. Chi è che ti chiama in sottofondo? Che c'è? La sveglia? Il cane Dudu? Chi è che no, abbarca? No, Dudu sta scrivendo un emendamento al Dudu Act. Chi è che ti sta chiamando? So, la sveglia, suo, ti citofono al postino. Sei in un cantiere. Dove qui è pieno di gente che va, viene, passa. Insomma, digli. Non so come dirti, in una parola, qui, caro Alessandro, sì, c'è traffico. C'è traffico, certo. Ciao Mauro. Ciao. Alessandro Milan, il David Letterman dell'informazione. Magari qualcuno mi ha scritto la Mandalier dell'informazione oggi con questa voce, più che David Letterman, due grandissimi personaggi che abbraccio comunque entrambi, da David Letterman alla Mandalier, come sono paraculo. Va bene, allora, per chiudere la questione di Berlusconi, oggi tra l'altro il Corriere della Sera, pagina 8, ha uno scenario su quello che potrebbe succedere in caso di affidamento ai servizi sociali. Giuseppe Guastella lo racconta, pagina 8 per l'appunto. Le regole da osservare per tutti coloro che sono ai servizi sociali: vietato il contatto con pregiudicati, vietato il contatto con tossicodipendenti, lavorare e predisporre gli accorgimenti per agevolare i controlli delle forze dell'ordine, non può abbandonare un'area ben precisa, non si può uscire di notte, si può viaggiare solo di giorno, non potrà andare all'estero. Insomma, è il vademecum che viene consegnato a tutte le persone che sono affidate ai servizi sociali, dunque anche Berlusconi, se dovesse capitare il 10 aprile o quando capiterà. Invece si sono riaperte le porte del carcere per Nicola Cosentino. È stato riarrestato ieri l'ex sottosegretario all'economia. L'inchiesta è per quella che ha portato in carcere anche due fratelli di Nicola Cosentino. La frase che è nell'ordinanza che fa più scalpore è questa: chi ha più forza quello spara, dove ci vuole la politica c'è mio fratello Nicola, dove ci vogliono i soldi ci sto io e dove ci vuole la forza c'è pure la forza. Leggi, scrive Repubblica, la camorra dei casalesi. Questa è un'intercettazione di uno dei fratelli Nicola Cosentino, è un imprenditore, Luigi Gallo, che ha denunciato tutto. Voleva aprire un distributore di carburante troppo vicino all'impianto di famiglia di Cosentino e quindi, secondo la procura, ha subito intimidazioni tipo quella di non insistere nel suo intento di aprire quel distributore di carburante troppo vicino appunto al distributore di famiglia, e quindi è ritornato in carcere. Ha detto: è una nuova fetenzia questa nei miei confronti, ma insomma dovrà vedersela con questa situazione da gestire Nicola Cosentino. Io voglio allargare un po' gli orizzonti. Oggi il Corriere della Sera ha in prima pagina, il titolo di prima pagina, un'intervista esclusiva al direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, ex ministro dell'economia francese fino al 2011, colei che ha sostituito Strauss-Kahn, ricordate, nella bufera anche sessuale che è stato coinvolto. Ora l'eurozona è più forte, temo l'inflazione bassa, nell'intervista di Massimo Gaggi a pagina 3, ma soprattutto c'è questo appello, più che un appello, un'accusa all'Italia, che porta il Corriere a farne il titolo di prima pagina: sul lavoro alle donne siete i peggiori. Così Christine Lagarde. Il lavoro femminile andrebbe incentivato, quantomeno non andrebbe disincentivato. Oggi ci sono molte situazioni di questo tipo in molti sistemi di tassazione. Prenda il Giappone, dove in Giappone hanno capito che creando una rete di centri per la cura dell'infanzia si può aiutare le donne nipponiche a entrare nel mercato del lavoro. Un paese che ha avuto molto successo in questo campo è l'Olanda, che ha dato la possibilità di creare lavori flessibili part-time senza restrizioni. Anche la Corea si sta muovendo in questa direzione, mentre invece l'Italia no, siete molto indietro su questo. Ci vuole un cambiamento di rotta per incoraggiare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Tutto ciò avrebbe effetti benefici sulla produzione di reddito aggiuntivo e quindi sull'uscita da un periodo di stagnazione. Poi fa tutta un'analisi economica, dice anche che le riforme di Renzi sono considerate ambiziose perché spaziano dal mercato del lavoro alla riforma dei servizi fino al miglioramento di un sistema giudiziario oggi molto lento, un'impostazione di politica fiscale che guarda più alla riduzione delle spese che all'aumento delle entrate tributarie grazie agli obiettivi della spending review di Cottarelli, e lo sottolinea Christine Lagarde visto che Cottarelli viene proprio dal Fondo Monetario Internazionale, così come peraltro il ministro dell'economia Padoan. E quindi diciamo che Christine Lagarde vede anche con ottimismo, anche se definisce ambiziose, le riforme di Renzi. Certo, però questa accusa sul mondo del lavoro e la scarsa accessibilità al mondo del lavoro per le donne, che in Italia resta un problema molto serio. C'è da registrare ancora tanti articoli del giorno dopo sulla situazione in Veneto per quello che è stato definito da alcuni il golpe d'austeria, per altri invece un tentativo da parte di alcuni secessionisti di fare vere e proprie azioni terroristiche. Tutti i giornali sono in quei paesi che sono al centro dell'attenzione. Vi segnalo a parte la cronaca, tutti vanno a registrare l'umore. Un articolo del giornale di Gabriele Villa: il Veneto in rivolta, è stato ignorato da 17 anni, c'è il più 11% di disoccupati. C'è anche l'analisi di Giuseppe Portolussi, che è della CGA di Mestre, a dire è questo anche il sottobosco e l'humus che può avere generato azioni che certamente sono azioni sbagliate, che qualcuno peraltro definisce azioni di quattro mona o comunque di quattro scalcagnati o 24. Sulla cronaca c'è anche da registrare, ve lo faccio notare, un articolo che ha solo il Corriere della Sera con Paolo Adamico e Luigi Ferrarella, pagina 23. La maxi truffa alla comunità ebraica succede a Milano. È successo che alla comunità ebraica di Milano sono accorti di un maxi ammanco milionario nei conti. Il tesoriere, fino al giugno 2013, è indagato per truffa dalla procura di Milano sulla denuncia della stessa comunità. 3 giorni fa ha tentato anche il suicidio, racconta il Corriere. Si tratta di Sergio Lainati, milanese, non iscritto alla comunità, assunto come impiegato 38 anni fa, ancora fresco di diploma, poi promosso fino a essere da molto tempo il direttore amministrativo. Ebbene, 500 esponenti della comunità ebraica di Milano hanno risposto alla convocazione straordinaria di un'assemblea urgente convocata dal presidente, che ha annunciato: al nostro interno dobbiamo affrontare la scoperta di una situazione che non avremmo mai ritenuto potesse verificarsi. Negli ultimi mesi sottoposta a controllo tutta la contabilità della comunità, controllo ancora in corso, ma ci sono degli ammanchi. L'ex tesoriere è indagato, sono spariti milioni di euro. Vabbè, siamo quasi in conclusione. Che dire, non voglio stendo un velo pietoso, dovrei dare la carta costa a tutti i giornali per la vicenda degli articoli sulla regina Elisabetta, una pagina ovunque, una pagina, ma non per dire vabbè la regina Elisabetta è arrivata, Napolitano, il Papa, ma una pagina con i titoli: la regina a Roma porta il whisky e le uova al Papa. Ma io veramente, la regina dal Papa con una bottiglia di whisky e le uova, titolo del secolo. Prima il Quirinale, poi da Bergoglio, la regina a Roma con whisky e uova, il Messaggero. Miele, whisky e tè, i doni di Elisabetta per il Papa dei poveri, una pagina del Corriere della Sera. Ecco, stendo un velo pietoso e do invece il premio, la carta costa al giornale con Nino Materia, pagina 16, la storia di una cicciona britannica, Caroline Atkins, che da 150 kg è scesa a 107 kg con la dieta miracolosa, che sarebbe questa: il cibo razionato come ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, la celebre razione K che veniva distribuita con busta della spesa, pochi cibi basici. Cioè, il giornale scrive una pagina per dire che mangiando poco si dimagrisce. Ma porca... Ah. Cos'è questa? Amandalir mi salva, grazie Peter, mi scappa. La Amandalir dell'informazione. La carta costa.